hanno detto l'idolo, la lotta al basi, punti allo spigolo, e poi ci calzi, ci accontentaci, con dei rimbalzi, cerco gli autentici, scartando i falsi, che andamento sicuro, sei convinto che il tuo caro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro, ma che andamento sicuro. Sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro. Ma che epoca, prendi decisioni senza revoca, tutti a testa alta in questa vita claustrofobica, vista strabica per un futuro dritto, il muto non sta zitto e il sordo sente tutto brutto, guardati allo specchio, non solo io invecchio, la verità la trovi agli angoli di un cerchio. La sicurezza fotte, frasi fatte a fette, tesi senza basi danno fitte e fuoco tra le chiappe, tappe bruciate come sigarette in bocca, manciate di pensieri fuori luogo e fuori rotta, è fatta, il nero è chiaro, il bianco è scuro, Charlie, l'andamento in base a ciò che fai anche se parli agli orli, perché standazzo in bilico il panico, sto cazzo di mondo acrilico e in più me stesso a carico, mi corico ad occhi aperti e sogno un ritmo in 16, sono volatili per diabetici, 13 maniaci, stanchi di sedere, di vedere cacciatori di potere senza ferri del mestiere, un parere, siamo pecore nere tra le mosche bianche, con le tasche vuote ed un futuro agghiacciante. Ma che andamento sicuro, sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro. Ma che andamento sicuro, sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro. Ho fatto un piano della vita che avrò, c'è una tabella che più bella di così non si può. Davvero serie intenzioni, voglio comprare delle azioni, vivere con le canzoni e vincere le premiazioni, sai. Pensavo in fondo fosse giusto così, quando è con dubbio mi assale, cazzo sto a fare io qui. Vado di corsa nel bagno, la mia vasca si è ritrasformata in stagno, sullo specchio c'è la tela di un ragno, mi ci rifletto ed ammetto, qui non guadagno. Ed ora cerco un lavoro, se lo smettevo adesso mi accendevo una Marlboro, e se ero un po' intonato me ne andavo in qualche coro, e che proprio non pensavo che il mio chiaro fosse scuro, fanculo, la tipa mi ha lasciato, è colpa mia, io torno con un disco strafigo e molta ironia, la mia, attento al tuo andamento, che il grafico sale lento, ma scende velocemente e cambia con il maltempo, già, e se lo giri cade pure la neve, fai come Fede, se gira tieni vicino un bicchiere, e bevi più che vuoi, che poi finisce che non mangi, piove, almeno non si vede quanto piangi, guarda, io rido perché riconosco quando è tempo di uscire o di star nascosto. Ma che andamento sicuro, sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro. Ma che andamento sicuro, sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro. Ma che andamento sicuro, sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro. Ma che andamento sicuro, sei convinto che il tuo chiaro non sia scuro, cambia il tempo come cambia il futuro, e in base a come si vive io mi misuro.